A bordo campo di Dario Ricci. Quella che vi raccontiamo oggi a bordo campo è una storia di calcio, di gol, di una coppa e di un trionfo. Ma è soprattutto una storia che unisce e racconta l'Italia col suo passato, con quel corno d'Africa che nel nostro paese fu, per una stagione breve e amara, possedimento coloniale. Ed è la storia di un uomo e di un campione, Luciano Vassallo, oggi 77enne, figlio di un soldato italiano e di una donna eritrea, che a suon di gol fu capace di regalare all'Etiopia uno straordinario successo in Coppa d'Africa. Lui, meticcio, sotto gli occhi dell'imperatore Haile Selassie in persona. Le mire espansionistiche italiane verso l'Etiopia nascono fin dalla fine dell'Ottocento. Nel 1896 è la battaglia di Adua, col successo dell'esercito abissino, a preservare l'indipendenza dell'Etiopia. Ma l'appuntamento con un nuovo conflitto è solo rimandato. Con l'apertura del canale di Suez aumenta l'interesse europeo per il Corno d'Africa e a seguito dell'incidente di Walwal, avvenuto nel dicembre del 1934, il regime fascista di Mussolini decide l'attacco verso l'impero etiope, il 3 ottobre 1935. Questa volta la guerra prende una piega decisamente diversa. Panorama di Sokotà, capoluogo dello WAG, uno degli importanti obiettivi raggiunti dal terzo corpo d'armata nella travolgente marcia delle nostre truppe verso il cuore dell'Etiopia. Nella regione abbandonata dagli armati nemici, sotto il peso delle disfatte subite su tutto il fronte eritreo, nell'Endertà, nel Tembien e nello Shire, le popolazioni attendevano ansiosamente la nostra avanzata, invocandola, come ebbe a dichiarare ai nostri ufficiali il Pitaurari Birettau Meressa, capo di Sokotà, a salvezza delle loro donne e della loro terra. Questo sentimento di fiducia e di gratitudine li spinge su quei monti incontro alle nostre truppe che li liberano per sempre dal tirannico governo di Addis Abeba. L'esercito italiano, agli ordini del generale Pietro Badoglio, riesce a sconfiggere la resistenza degli etiopi e a spingersi fino alla capitale, Addis Abeba, nella quale entra il 5 maggio 1936. L'Etiopia viene annessa all'Africa orientale italiana. Nell'Endertà, dove già si snodano le comode strade aperte dalla nostra avanzata, le ampie distese non attendono altro che il colono d'Italia per tramutarsi in immense e fertili piantagioni. Su tutte le posizioni dominanti occhieggiano saldi presidi tenuti dai nostri. Qui vediamo un gruppo di bersaglieri che ci mostrano con gioiosa fierezza le armi catturate al nemico. È nel Corno d'Africa, dominato dall'Italia fascista, che nascono Luciano Vassallo e suo fratello Italo, figli, come dicevamo, di un soldato italiano e di una donna eritrea. L'amore per il calcio sboccia tra le polverose strade di Asmara, in Eritrea, come ci racconta lo stesso Luciano. Asmara, per esempio, nei campi da gioco, lì sono passati parecchi giocatori. Io ho giocato con il gruppo sportivo Asmara, che è una squadra italiana, e c'erano dei ragazzi che erano veramente fortissimi e si facevano anche delle partite con squadre che venivano da altri paesi, però piano piano, guarda, se l'Etiopia avesse curato dopo la terza Coppa d'Africa la situazione del calcio, curato bene, oggi saremmo stati, perché il talento c'è, la capacità di giocare c'è. Paese martoriato e terra di conquista, l'Etiopia. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fa subito vacillare il colonialismo italiano. Nel 1941 arrivano gli inglesi e al potere torna l'imperatore Haile Selassie. Nel frattempo, negli anni 50, all'Etiopia viene annessa la stessa Eritrea. Luciano e Italo Meticci cominciano fin da adolescenti a pagare sulla loro pelle le sofferenze impartite agli etiopi durante il periodo della colonizzazione fascista. Razzisti sono stati gli italiani e razzisti sono anche sia gli etiopici che gli eritrei. Siamo quelli che veniamo schiacciati, però io ero molto, ho avuto un passato molto duro. Di conseguenza non è che mi avevo paura o altro. Allora io ero deciso di andarmene via, però prima di questo fatto mi aveva detto: perché non cambi il nome? Io gli ho detto, guarda, io, a me non piace il mio nome, però non lo cambio per niente, capito? Muratore, falegname, meccanico. Fin da giovane Luciano Vassallo e il fratello Italo cominciano a lavorare per guadagnarsi da vivere. Pallone e lavoro, lavoro e pallone per tutta la vita, perché di calcio in Africa, oggi come allora, davvero non si vive. Una legge che accompagnerà Luciano Vassallo dai primi calci ad Asmara fino agli ultimi gol realizzati nel club di Dire Dala, quando ormai è già un campione affermato. Non c'è cosa che non ho provato, poi alla fine mi sono fatto la mia officina. Ho costruito la mia officina a Dire Dala, c'è ora un'officina per autorizzata a Volkswagen. Poi di là mi hanno licenziato quelli del cotonificio perché io prendevo uno stipendio, diciamo, europeo. Non è che andavo gratis, Io prendevo 640 dollari etiopici al mese, mentre un giocatore locale che giocava con noi ne prendeva 30-35, ero ben pagato, se no non ci andavo, sono 1400 e passa chilometri da Asmara. Ma ogni minuto libero in questa storia di calcio, passione, Italia e Africa è dedicato all'amato pallone. Lui è un regista col fiuto del gol, ma anche Itoala non scherza a dar dispiacere ai portieri avversari. A far piangere entrambi a volte sono invece gli insulti razzisti che arrivano dagli spalti e la discriminazione spesso imposta loro dagli stessi dirigenti delle squadre in cui giocano, come testimonia ancora Luciano. Si giocava proprio per la passione, senza aspettative, però piano piano uno diceva, ma perché non ci provo anch'io? E io sono entrato dentro, è stato difficile salire, perché poi giocavo con una squadra di meticci, Stella Asmarina. Quando entravamo in campo, gli insulti, io non ti dico, guarda, ti spaventavi. Io infatti dicevo, porco cane, ma che questi qua ce l'hanno con noi? In ogni modo, e i dirigenti, tutti stupidi, ci hanno fatto le magliette bianco e nero e bianco. Intanto passano gli anni, il ricordo della guerra si fa più lontano, il tempo in parte rimargina le ferite dei conflitti passati. I nemici di allora scoprono di avere adesso parecchi e forti interessi comuni, come testimoniano i cinegiornali dell'epoca. Sua Maestà Haile Selassie ha ricevuto ufficialmente nel Palazzo Imperiale di Addis Abeba i rappresentanti di un grande stabilimento di Treviglio in occasione della esposizione industriale italiana svoltasi in questi giorni in Etiopia. Durante la visita alla mostra, l'imperatore, accompagnato da alti dignitari e dai rappresentanti di numerose nazioni di 5 continenti, si è particolarmente interessato alla produzione di macchine agricole della nota industria lombarda, che ha esposto qui le sue ultime creazioni. Roma, messa in mostra di memorie imperiali per ricevere un imperatore, Haile Selassie, sovrano d'Etiopia. Haile Selassie, uomo coraggioso e intelligente, ma anche l'ultimo quasi dei monarchi feudali. Per lui lo splendore dei corazzieri della nostra Repubblica appare da argine all'assalto dei fotografi. Non gli hanno fatto vedere invece l'obelisco di Aksum, ultimo retaggio mussoliniano di un impero durato pochissimi anni. L'obelisco, snello e potente, parla troppo di un recente passato, sul quale tutti hanno dato un colpo di spugna. E sarà proprio nel nome dell'imperatore Haile Selassie che il 21 gennaio 1962, nello stadio nazionale di Addis Abeba, Luciano e Italo Vassallo regaleranno, loro meticci italo-eritrei, all'Etiopia la più grande giornata della sua storia calcistica. A bordo campo. È il 21 gennaio 1962 quando, nello stadio Haile Selassie di Addis Abeba, l'Etiopia, padrona di casa, e l'Egitto si affrontano nella finale della Coppa d'Africa. In tribuna, tra migliaia di spettatori festanti, l'imperatore in persona. A trascinare l'Etiopia in finale proprio i gol di Italo e Luciano Vassallo, meticci italo-eritrei. Quanto ne è passato di tempo dai primi calci tirati da quei due bambini tra le vie polverose di Asmara. Luciano, di quella nazionale, è addirittura il capitano. ma solo il suo grande talento e l'amicizia con qualche compagno permise a lui meticcio di tenere al braccio il simbolo di guida non solo della squadra, ma di un paese intero. Quando si è deciso di scegliere il capitano della squadra, naturalmente era basato su quante partite uno aveva fatto. Se uno aveva giocato più partite degli altri, lui aveva il diritto di essere capitano. Però a me mi ha detto che il capitano era un altro, il responsabile della federazione è questo. E io me la sono presa, ho detto, ma guarda un po', ho giocato più partite, naturalmente... Ho capito anche che era un nome italiano, Luciano Vassallo, che va ed è il capitano della nazionale etiopica. Me la diedero, sa perché? Perché c'era alla mezzala destra, che si chiama un certo Mengistu, un fuoriclasse proprio, un bel giocatore, e lui, io e lui ci intendevamo, avevamo capito tutto l'andazzo, la formazione c'era, tutto quanto. Basta che spostavi, che buttavi fuori uno di noi e era finita la squadra. E dire che la devozione dei Vassallo nei confronti di Haile Selassie è assoluta e contraccambiata dall'affetto dell'imperatore. L'imperatore è l'uomo, l'unico uomo in Africa che puoi definirlo un essere umano, intelligente e veramente che faceva tanto per il paese. Non è perché lui mi ha trattato così, con tutti era così lui. Tutti i discorsi che sfumano al fischio d'inizio. Gli egiziani sono un osso duro, ma l'Etiopia dei fratelli Vassallo non è da meno. Subito abbiamo fatto un gol. Un certo Tahle, che giocava sull'ala sinistra, ha fatto il primo gol. Dopodiché l'Egitto neanche ha messo la palla al centro, di conseguenza 2-3 passaggi, gol 1-1. Poi dopo ha preso e hanno fatto un altro gol ed erano 2-1. A 7 minuti alla fine... Il gol del pareggio l'ho segnato io. Difficile poi per la difesa avversaria tenere d'occhio l'imprevedibile Luciano. Ho lavorato perché correvo dappertutto, io ero, insomma, avevo una resistenza che non... Io attaccavo, venivo di sorpresa, entravo in area e facevo sempre... Ho segnato un sacco di gol. Il trionfo etiope arriva ai supplementari, ricorda ancora Luciano. E i protagonisti sono proprio il fratello Italo e l'altro fuori classe, Mengistu. Quando abbiamo pareggiato, mancavano 7 minuti, Italo fa il terzo gol, dribbla tutti i difensori lì e fa il terzo gol. Poi alla fine, verso la fine, dopo 5 minuti così alla fine, fa il quarto gol Mengistu. E allora, e poi ci sono stati anche i tempi supplementari e non è mica che è finita così. La squadra era fortissima. L'Etiopia è per la prima e finora unica volta nella sua storia campione d'Africa. È Luciano Vassallo, fascia di capitano al braccio, a ricevere dall'imperatore la coppa e a essere nominato miglior giocatore del torneo. Luciano, di Coppe d'Africa con la maglia etiope, ne giocherà altre 3, conquistando un quarto posto nel 1968 e chiudendo la carriera con 104 presenze con la maglia dell'Etiopia, record ancora imbattuto. Sono stato eletto Stella d'Africa. C'è una foto che io scendevo dall'aereo e i giapponesi mi hanno incoronato proprio. Conclusa la carriera di calciatore, la vita di Luciano Vassallo si intreccia ancora con l'Italia. È un italiano che lo spinge verso Coverciano per diventare prima allenatore e poi commissario tecnico della stessa nazionale. Un italiano che mi ha mandato a Coverciano dall'Etiopia e tramite la federazione lui ha pagato tutto quanto e mi ha mandato. A me non mi avrebbero mai mandato in Italia. Questo qua era un direttore dell'AGIP a Addis Abeba. E mi ha mandato lui, tramite la federazione, lui mi ha detto che è lui che mi sta mandando. Di conseguenza sono arrivato là e mi è venuto a trovare pure a Coverciano. E a Coverciano Luciano entra in contatto con i grandi del football nostrano dell'epoca. C'era Armando Picchi, una bravissima persona che rispetto tanto, Vinicio, Maldini... E poi c'erano altri giocatori lì, diciamo l'ambiente calcistico formato di giocatori, uno può essere diciamo classificato, non so, più forte, eccetera, eccetera, ma Ma la relazione tra i giocatori è sempre, sempre la stessa in tutte le parti del mondo. E allora, ecco, ho avuto questa fortuna di partecipare e imparare. Ma intanto la storia fa il suo corso e divide i destini degli uomini. In February 1974, the Ethiopian military rose up in revolt. By September, they deposed the Emperor Haile Selassie. It was a coup that brought to an end one of the world's oldest continuous kingdoms. Gave it its first written constitution. Realizing that times must change, he has decreed constitutional reforms be made. Nel 1974 un colpo di Stato depone Haile Selassie e crea un regime militare socialista con a capo il dittatore Mengistu. Amara e ironica omonimia con la stella che brillava con la maglia della nazionale a fianco di Luciano e Italo Vassallo. We did not come by force or by weapon or by violence, or we did not plan to seek power, taking the advantage of the situation. We just invited by the entire Ethiopian people. It was very popular revolution. Pochi anni e Luciano Vassallo decide di fuggire in Italia. Mi sono fatto licenziare, sono andato a Addis Abeba, ho costruito, perché avevo risparmiato dei soldi e via di seguito, e ho costruito un'altra officina, ho comperato la villa, il terreno, 3.335 metri quadri, officina, carrozzeria, meccanica. Quando il regime militare ha incominciato a rompermi l'anima, mi prendevano, mi portavano in prigione, io ho dovuto lasciare l'Etiopia, sono scappato via. Il calcio gli resta nel cuore, ma bisogna guadagnarsi da vivere. Lavora in un'officina, ma intanto apre una scuola calcio a Ostia, vicino Roma, dove crescere i campioncini di domani. Oggi mi scrivono dei ragazzini che avevo allenato, ora sono padri di famiglia, eccetera, e io, ma, ti dico, sono veramente così soddisfatto, perché ho fatto un bel lavoro, cioè mi curavo non solamente il gioco del calcio, ma anche le scuole. Perché noi abbiamo subito tanto, ci hanno sfruttato, ci hanno proprio spremuto e molti giocatori sono finiti male e noi altri siamo i sopravvissuti. E allora il calcio, il settore giovanile va modificato, non è che gli prometti qua, questo, quello, quell'altro, poi rimane in mezzo alla strada, capito? Oggi, a quasi 78 anni, Luciano Vassallo si gode la pensione a Marcellina, vicino Tivoli, sempre nei pressi della capitale. Il fratello Italo è invece rimasto a vivere in Eritrea. Più di 50 anni li dividono da quella magica finale di Addis Abeba, ma la memoria funziona ancora alla grande, se solo gli chiedi di ricordare i protagonisti di quell'impresa. Ghila Michele era il portiere, Kuflom era il terzino destro, Avraha era il numero 4, il centro mediano era un certo Awad. Poi lato sinistro centrocampista c'era un Tesfai si chiamava. Sul lato destro ci stavo io. Poi all'ala destra c'era un certo Getaccio. Centravanti, diciamo avanzato, Mengistu, che sarebbe quel fuoriclasse. E il numero 10 a mezzala sinistra invece Italo. E poi c'era Tahle e Grima che si sono scambiati. Noi abbiamo cambiato solamente un giocatore. E quella coppa ricevuta allora dalle mani di Haile Selassie in persona? Esatto, Addis Abeba nella federazione sarà. Sarebbe bello un giorno andarla a rivedere. Eh sì, veramente. È una buona idea questa, però se io avrò la possibilità di andare, te lo dico, Per A Bordo Campo di oggi è tutto, vi ricordo tra l'altro che la storia di Luciano Vassallo è raccontata anche dal libro Mamma, ecco i soldi, edito dallo stesso Vassallo per Coralli Editore, una lettura che vi consigliamo davvero di cuore. Un grazie sempre di cuore in regia a Pietro Lacorte, e vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il nostro blog e riascoltarci dal sito www.radio24.it. L'appuntamento come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.